su Rigonia. Partiamo dalla storia del capolavoro di Elsa Morante con Jasmine Tripp, un racconto universale fra dramma e riscatto nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale. E poi Mamei, regia di Luca Lucini e Iago Panini, una vicenda epica che nel contesto risorgimentale della Repubblica Romana si concentra sulla giovinezza di Goffredo Mameli. Chi l'avrebbe mai detto? Tanto che palle. E poi La luce della masseria, regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, e non da gennaio. Una storia familiare per celebra i 70 anni dell'inizio delle trasmissioni regolari del servizio pubblico. Poi, nel primo semestre del 2024 vedremo La lunga notte, la caduta del Duce, firmato da Massimo Campiotti, con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi. Poi c'è La rosa dell'Istria, che arriverà sempre su Rai 1, arriverà sempre su Rai 1 nel 2024, la quarta e ultima stagione dell'Amica Geniale, che si basa su Storia della bambina perduta, è il quarto libro che chiude la tetralogia di Elena Ferrante. Completamente rinnovato il cast, che vede protagonisti Alba Rockwagner nel ruolo di Elena Greco, Lenù, Irene Maiorino nel ruolo di Lilia Cerullo e Fabrizio Gioffoni nel ruolo di Nino Sarratore, Home and Murder, ricordiamo. Ma possiamo dire che prima c'erano i ruoli femminili e poi c'è Jasmine Trink. Esatto, ci sono famiglie. Lo sguardo fisso davanti a sé, il teso, dice, sono le prime immagini degli M, il figlio del secolo, la serie ispirata al bestseller premio strega di Antonio Scurati, punta di diamante della nuova per la Sky. E ho tutto dentro e poi mi accorgo che non ho parole, non c'è poesia, solo un senza far rumore. Tutto va via e mi lascia qui a guardarmi frantumare. Non c'è poesia né voglia di aver timore. La cera brucia, adesso non mi servono parole. Ciao amici di Rigonia, forse è il caso che io... Ecco, adesso mi sento, grazie al cielo, adesso mi sento. Sono le... Oddio, sto facendo tanta confusione. 17.08. E questo è il 24 maggio. Oggi è il 24 maggio 2024 e... ho mandato due pezzi in onda, uno in fila all'altro, più uno spezzone. Questa vorrei fosse una puntata di spezzoni, appunto. E... perché avevo un progetto tempo fa e ho scoperto di averlo perso quando ho sfasciato il telefono. Forse posso fare ancora un controllo su Drive, ma mi ero messo a registrare delle piccole pillole audio. Avevo anche coinvolto delle persone, alcune le ho rubate come queste, tra l'altro un inizio dove c'è molto Fabio Bruno, devo dire, non l'ho fatto apposta, ma chissà, forse ho bisogno della sua energia in questo momento. Ero convinto di venire in onda e parlare di una determinata cosa, ma oggi ho avuto una bella conversazione con mia madre, che è qui, che ci dà una mano rispetto appunto al discorso del garage allagato, insomma, cose che ho raccontato nella puntata precedente. E poco prima di... in realtà a metà giornata sono inciampato in questo pezzo, che è il primo pezzo che avete sentito, che si chiama Make Better Friends, di un producer che si chiama Amon Tobin, in collaborazione con una rock band che adesso non vedo scritta, quindi... non ve la so dire, ed è un pezzo che riesce nella sua parte armonica e nell'attacco di batteria a toccare un punto della mia pancia, un punto del mio corpo, una vibrazione che mi commuove, cioè mi fa scatenare l'energia e mi fa uscire fuori tutto il dolore. E mi ricorda di quando suonavo con questo atteggiamento da ragazzo. E questa energia, questo dolore è come se quando uscisse ci fosse una voce interiore che dice sì, questa è la ragione per cui sei al mondo. E quindi quando io incontro queste canzoni, questa potenza, questa energia, come d'altronde fa anche Controvento di Newt, io resto, come dire, rapito, incastrato da questo bisogno di far parlare la pancia. E allora qual è il tema della puntata di oggi? È un tema che per me è difficile, quindi forse sarà una puntata più di audio che di parole, perché Se è vero, ne ho già dedicata una su un argomento simile, ma non è proprio la stessa cosa. Se è vero che da un lato c'è questo aspetto della libertà di cui ho parlato nella puntata precedente, quindi di questo senso di benessere, ma anche della consapevolezza di una maturazione che sta giungendo a compimento di un parto, di una trasformazione, di una metamorfosi che sto vivendo e che mi proietta in una dimensione positiva completamente nuova di me, c'è allo stesso tempo, in contemporanea, un insieme di situazioni, di eventi e che in qualche modo invece mettono in continua discussione la mia capacità di sentirmi integro, cioè la mia capacità di rispettarmi, non so come dire, di sopportare la vita quotidiana. E per questa ragione il titolo di questa puntata, che doveva parlare di tutt'altro, e magari riprenderò in mano quel discorso, ma dopo, perché è giusto dare la precedenza a quello che la pancia vuole che venga espresso. Il titolo di questa puntata è La serie B, che è un concetto che mi è venuto in mente così, per caso. La serie B, cosa vuol dire la serie B? È come dire giocare un gioco a un livello che è sotto il tuo, ed è una cosa di cui sto facendo esperienza tanto in questo periodo, ed è una cosa che da un lato mi fa arrabbiare e dall'altro mi fa dire ok, quindi proviamoci, io voglio andare in Serie A, io devo andare in Serie A, io ho bisogno che a un certo punto io mi tolga di mezzo la serie B e finalmente vada in serie A. Che è trascorso, guarda i sentieri e le strade che hai percorso, non sai più dove andare. Amare oppure no, la devi affrontare. L'ombra che l'uomo che sei. Lascia le paure, c'è un mondo da affrontare. Le percezioni e diventa animale, metta i tuoi ritmi, fatti accompagnare, dimentica il tuo io, comincia a camminare. Affrontare anche se no. l'avevano dimenticato. Lo sguardo di un altro uomo, la voce di un altro tono, il respiro di un altro suono, la calma di qualcuno che ha visto il mostro dentro di sé. Così è cantato benissimo. Il mostro dentro di sé, ha visto il mostro dentro di sé. Go ni a. Torniamo in onda, sono le 17.18 e questa è Rigonia, la puntata dedicata alla serie B. Cosa diavolo è questa serie B? La serie B è un luogo dell'anima che è il contrario della libertà. La serie B è quella stanza dove c'è la rabbia, dove c'è l'orgoglio, dove ci sono le ferite, dove ci sono le persone che sbattono la testa contro i muri, dove ci sono le persone che si strappano i vestiti, Agiace che si butta sulla sua stessa spada. La serie B è quella dimensione dell'esistenza dove non meriti di stare, però di tanto in tanto ci finisci, e io in questa serie B ci sto finendo spesso da un po' di tempo a sta parte. Ci ho passato anche diversi giorni e settimane di fila. E assomiglia un po' alla depressione, ma non è esattamente quello. Ciao Lucia, cosa ci fai qui? Ciao a tutti! Ecco, Lucia sta distruggendo il mood della puntata. Oddio, sì. Era. La puntata parla della serie B, il luogo dell'anima dove c'è la rabbia, dove ci sono le persone che sbattono la testa contro i muri, si strappano le vesti, e c'è Agiace che si lancia sulla sua stessa spada. Se devi commentare dovresti farlo proprio davanti al microfono, però. No, grazie. Dice di no. Quindi no, non mi va, sei molto gentile. E il bello della diretta è, purtroppo casa mia, almeno fino a martedì, sarà un posto molto grande con pochissimo spazio, perché mia madre in particolare riesce a stare in tutte le stanze contemporaneamente, ha questo potere incredibile. Però è stato un po' un sollievo questa piccola scena, perché mi ha permesso un attimo di prendere il respiro e mi ha permesso di vedere una porta, e questa è una bella cosa, perché le porte sono un po' la chiave di questa situazione. E la capacità di vedere e entrare nelle porte. E nella, in questa, in questo spazio che ho deciso di chiamare la serie B, le energie sono ferme e si fa fatica anche a respirare. È chiaramente, come dire, una dimensione di emergenza. È come se il sistema attivasse uno switch, un interruttore, e tu ti trovassi di punto in bianco in uno spazio dove tutto si blocca e dove tutto sembra chiuso. Per questo le porte sono importanti, ma le porte non sono visibili, non ci sono gli stipiti, non ci sono le maniglie. Le porte te le devi un po' imparare a sgamare, diciamo. Devi in qualche modo entrare in accordo, entrare in relazione col vuoto, fare il vuoto attorno a sé, creare questo vuoto che è silenzio, ma è anche presente, ma è anche presenza e anche attenzione. In qualche modo ridurre il livello di sovraeccitazione, quindi basta dare le testate al muro, basta strapparsi le vesti, basta lanciarsi contro le spade, ma fermarsi e guardare questa stanza, guardare questo spazio. E allora lì vedi le porte, e allora lì puoi uscire. E c'è qualcosa che è molto crudele di questa dimensione della serie B, nel senso che una volta che ci finisci dentro, capisci che non ti meriti di stare lì. Ed è il momento più difficile, nel senso che ti agiti e vuoi uscire subito, ed è il contrario di quello che funziona. In qualche modo devi parlarci, devi entrare in relazione con questo spazio, devi imparare a conoscerlo, devi imparare anche a starci dentro, perché appunto non ne vedrai l'uscita altrimenti. E naturalmente la prima reazione è quella di agitazione, perché senti che un po' quella volta ti viene tolta la vitalità, e quindi lo spavento è che quando non ne avrai più, quando sarà finita, allora non potrai più uscire. E questa cosa non è proprio vera. Anzi, in realtà le energie si devono attenuare per permettere alla tua dimensione di entrare nello spazio di comfort, entrare nello spazio in cui sei lucido, entrare nello spazio in cui appunto diventa tutto visibile. Uno si chiede perché succede, perché mia moglie continua a entrare in stanza. Lo vedo, si sta scatenando una tempesta, ma è naturale, guarda che di comore sono io, fuori può solo scatenarsi la tempesta. Ti amo. A Torino adesso si sta veramente abbattendo un nubifragio, che darebbe quasi quasi ragione al mio amico che pensava che quando vado giù di umore cambio il tempo climatico, ma non è così. È semplicemente è un periodo di merda, atmosfericamente io ne sono, come dire, testimone concreto, cioè il punto è che questa serie B esiste per darti tempo di guardarti, perché talvolta non ci si guarda, e in qualche modo di ricostruire, in qualche modo rialzarsi, in qualche modo capire che si può stare fermi capire che si può lasciare che il livello energetico scenda, si può aspettare il momento in cui la porta si manifesta. Il punto è essere disponibili, il punto è cercare di in qualche maniera trovarsi, ritrovarsi in qualche maniera anche all'interno di quello spazio, riconoscersi, dire fermi, scapocciatori, aiacisti, gentaglia, fermiamoci tutti un attimo, che cosa stiamo facendo, che cosa sta succedendo, che cosa stiamo accettando, che cosa stiamo accettando. Ecco, nel momento in cui ci diciamo che cosa stiamo accettando, che in realtà non vorremmo accettare, quello è il momento in cui cominci ad attivare l'azione. E men che non si dica, hai già la mano sopra la maniglia. A moment's a little bit later. anche se adesso rimanete in giro, comunque fra un paio d'ore, tanto che torni a casa, mi faccio sgusti tutto quanto. Non lavarmi le mani nel frattempo. Sgusti tutto quanto. O se ti fai la doccia, acqua calda, sapore, bello carico carico, schiuma assai assai e ti dai un paio di sciacquate come si deve, in saponi, massaggi, sciacqui, in saponi. Ok. Finito, asciughi, possibilmente con dello Scottex, questa è una formalità, che adesso vi spiego anche. Tu hai una ferita aperta. Sì, meno abrasiva dell'asciugamano. No, più che altro che qualunque tipo di asciugamano tessuto potrebbe lasciarti dei peletti. Sì. Non c'è. C'è aperto. Cioè non è che è una cazzata, ma devi veramente, vuol dire che ti hanno spedito un accappatoio bisunto dall'India pieno di zecche per fare il piatto. Ok, quindi se c'è la Scottex a portare mano, parlo con la Scottex. Cioè, se ti fai la doccia, esci dalla doccia e c'hai l'accappatoio e ti tamponi la cossa, sì, non ti muori. Ok. Fatto quello, un leggero strato di Bepanthenol non deve rimanere bianco, non deve essere proprio unto, no, deve essere umido. Deve asciugare, ok. La parte deve essere umida perché quello si deve asciugare piano piano, okay, il tatuaggio, non si deve indurire. Go, ni, a. Dragonia 17:35 24 maggio 2024, mi stavo dimenticando di accendere il microfono. Ed è bello in una puntata in cui comunque, come dire, sto esorcizzando un sentimento che si stava impossessando di me, sentire la voce dei ricordi estivi e degli amici. E non so, probabilmente se Nicola ascolterà mai questa puntata potrebbe persino denunciarmi, conoscendolo, o menarmi, ancora più facile. Ed è lui che mi dà i consigli su come trattare il tatuaggio dopo che me lo sono fatto. E beh, questa è una delle risposte migliori alla domanda: a cosa serve, perché si finisce nella serie B? Beh, si finisce nella serie B anche per in qualche modo guardarsi attorno. Si rallenta per aprire gli occhi, vedere le porte, ma queste porte poi che cosa sono? Sono le cose belle che già esistono nella vita, sono le soddisfazioni, sono le piccole gioie, le piccole esperienze che poi mettono insieme i ricordi felici, quelli di cui parlerai poi agli altri amici o ai figli, e sono quelli che ti dicono, che in qualche modo ti dicono che appunto in questo momento sei in serie B, ma se vorrai per te ci sarà la serie A, cioè se vorrai per te ci sarà quell'altro livello, quell'altra parte, quella del prato neozelandese, gli alberi e la libertà, però lo devi volere, ecco, lo devi volere, e per volerlo devi essere in grado in qualche maniera di decidere tu che in quello spazio, in quel luogo angusto, non ci vuoi più stare. Devi decidere tu che quella dimensione nella quale percepisci il senso di sconfitta e di impotenza è soltanto un momento, è soltanto una parte della storia, e in qualche maniera anche la parte della storia che ti fa venire voglia di riprovarci, la parte della storia che ti fa venire voglia di dimenticarti di tutto quello che non ha importanza, la parte della storia che ti fa dire che oggi ti prenderai cura di te stesso, che oggi le cose che hai attorno veramente sono le cose importanti, che oggi in qualche maniera andrai in radio e darai un pezzo di te, che oggi farai una bella conversazione con tua madre, che oggi ti confronterai con i colleghi che ti interessano, le persone che ti stimolano, perché in qualche modo sentirai che in qualche modo stai crescendo, E in fondo, appunto, la Serie B esiste per decidere di non voler più stare in Serie B. Banalmente, tu ci finisci e dici: no, io in questo posto non ci voglio più stare. Ed è bello sentirsi trasformare. È bello che mi sto trasformando durante la trasmissione, perché non so se avrei retto tanti minuti parlando di questa cosa, perché c'è una mia dimensione di rabbia pesante e adesso le cose diventano molto nette, le energie buone, le energie cattive, i contesti positivi, i contesti negativi, la rabbia, la soddisfazione, è tutto molto scandito, non è più mescolato assieme, cioè riesco abbastanza bene a vedere cosa va e cosa non va. E appunto, nel momento in cui distingo così bene la Serie B dalla Serie A, mi rendo conto che è pazzesco anche solo che io abbia potuto immaginare che ci fosse una Serie A, ma il fatto di poterci stare, di poterla abitare, di poterci giocare, è una vittoria, una soddisfazione, un regalo, un miracolo, è qualcosa che poi alla fine, se io posso arrivare alla fine della puntata e trasmettere, cioè dire c'è un mondo per ciascuno di noi che è un mondo stimolante, è un mondo intrigante, è un mondo avvincente, è un mondo dove investire, credere nella propria energia. Se io alla fine della puntata riesco a fare questo, avrò fatto una bella puntata rispetto a quella che avevo in mente, che comunque era una puntata molto buona e che ho dovuto mettere da parte per elaborare, guardare in faccia la Serie B e dire: sentite, io qua non ci voglio più stare. Bye. andiamo in onda così a schiaffo. È il 24 maggio 2024 e sono le 17:44 e nella conversazione con mia madre che ho avuto oggi, mia madre mi ha detto che è tutto nella mia mente. Ed è vero, nel senso, il lato B, la serie B, questo concetto astratto che mi sono sentito un po' di dover sfoderare oggi, è una dimensione propria, personale, cioè non dipende da nessuno, è una scelta. E allora il pensiero è, evidentemente, se esiste questo lato B, e sicuramente ha la funzione in qualche modo di ricompattare e di ricompattare quello che va ricompattato, rimesso insieme, e distruggere quello che deve essere distrutto. Se è vero ed esiste questa serie B, è anche vero che ciascuno di noi ha l'interruttore per spegnerla. E di solito, almeno nella mia esperienza, non c'è un'azione di volontà che dice adesso la spengo. Un giorno semplicemente scopri che non c'è più e tutto sommato pensi che non tornerà. In realtà non può non tornare, perché ogni qualvolta si sbaglia il percorso, ogni qualvolta ci si perde la strada, ogni qualvolta si investe sulla cosa sbagliata, lei si deve rimanifestare. Lei deve venirti a dire: distruggi quello che va distrutto e compatta quello che va ricompattato. E bisogna starla a sentire, bisogna ascoltare, bisogna fermarsi. E nel momento in cui viene consegnato il messaggio, nel momento in cui il messaggio viene agito, anche questa sensazione di giocare a ribasso, questa sensazione di giocare a un gioco che non è il gioco che si merita di giocare, ma che si sta andando giù, che si sta accettando il meno rispetto al più, anche quella se ne va via. Cercare di piegare il cucchiaio è impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità. Quale verità? Che il cucchiaio non esiste. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso. L'oracolo vuole vederti ora. We'll be right back. Sono le 17:50 di questa puntata strana che ci metterò una vita a pubblicare perché non è oggettivamente la puntata migliore di questo nuovo corso, anche se era necessaria, è stata come una pulizia, come una rispolverata. Farò una cosa però originale, così per dare un tocco diverso, insomma, all'andazzo. Rimetterò la stessa canzone che ho messo all'inizio, perché voglio dare un senso di circolarità, nel senso che alla fine, di tutto questo giro, tutto quello che importa è quella dannata, è quel dannato rullante che picchia così duro su quegli armonici che mi accarezzano la pancia e mi fanno pensare, beh sì, probabilmente passare un'ora a raccontare i cazzi miei non è la cosa più interessante per un ascoltatore, però è anche vero che io sto puntellando la mia esistenza nel mondo ed è tutto ciò che importa. È tutto ciò che importa ed è quello che mi fa uscire dalla mia serie B. E voglio dire anche questo, alla fine probabilmente io non, come dire, non convoglio, non voglio avere so bene che queste cose che faccio hanno pochi ascoltatori, hanno poco seguito, ma quelli che ci sono verissimi e danno un grandissimo peso a quello che faccio e riflettono su quello che dico. E la cosa magica veramente, la cosa che poi me lo fa fare, mi fa andare avanti, è che nonostante questo, cioè nonostante io sappia che questa cosa non mi renderà mai ricco e famoso, in qualche maniera è un atto di coraggio, cioè un atto a modo suo, io lo considero un atto eroico, perché ne conoscessi di persone che si mettono a nudo così, ne conoscessi di persone che hanno la forza di mostrare le loro debolezze, di raccontarle, di razionalizzarle, di dipingerle così. In 50 minuti di radio, ne conoscessi, se io ne conoscessi e le potessi ascoltare, probabilmente non lo farei io. Però non ci sono. Ci sono tante persone che ti vogliono dire come fare le cose, ci sono tante persone che ti vogliono spiegare come gira il mondo, ci sono tante persone che si vogliono riempire la bocca della propria cultura, della propria conoscenza, ci sono persone che scappano da loro stesse, cioè nella radio, nella musica, nelle arti. Ci sono tante cose, ma persone che raccontano in maniera umana, semplice, lineare e spassionata il proprio disagio, il proprio dolore, io non ne conosco più tante. E quindi per me è questo il posto dove stare. Per me è questa la cosa che ha senso fare. Perché per spiegarti che cazzo succede a Gaza, puoi rivolgerti a 100 persone diverse. Ma per avere la voce di uno che racconta una cosa che magari tu hai vissuto e ti racconta una cosa che magari hai vissuto nella sua stessa maniera, e se ti racconta una cosa che magari quando hai vissuto non l'avevi pensata, quando hai vissuto ti sarebbe piaciuto avere qualcuno con cui confidarti che ti rispondesse così, ebbene, ci sono io, sono io, sono io quella persona. 17:54, 24 maggio 2024, stagione 2, episodio 26 di Rigonia. Io chiudo con la canzone con cui ho iniziato la puntata. E spero che chiunque sia all'ascolto, in diretta o in podcast, possa assorbirne la potenza, l'emozione. Perché io non so perché questo pezzo qua, così distorto, con questi suoni, lo trovo pieno di emozioni. Ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio per avermi ascoltato. Ti auguro una buona serata, un buon weekend. Io penso di tornare molto presto comunque. Ciao. ripeto il titolo della canzone: Make Better Friends. Arrivederci su Rigonia.